Visto che oggi parlavamo del figlio di Patrizia che ha avuto e sta vivendo questa sensazione di grande libertà che è data dalla bicicletta, e lei l'ha raccontato in una maniera molto garbata, molto toccante, molto emozionata anche da parte sua, ed emozionante per chi l'ascoltava. Noi abbiamo cominciato a chiedere agli ascoltatori qual è stato il vostro giro in bicicletta più lungo, il giro in bicicletta più lungo che avete fatto, e mentre ne parlavamo, mentre facevamo una ricerca, abbiamo scoperto che c'è stato in realtà due italiani, ma uno può raccontarcelo, che anni fa, quasi 60 anni fa, esattamente nel 1956, ha fatto un giro in bicicletta che è stato, diciamo, il giro per antonomasia, perché in bicicletta ha fatto il giro del mondo. Lui è Valentino Rolando, è a Torino ed è al telefono con noi. Signor Rolando, buongiorno. Buongiorno. Come stai innanzitutto? Non tanto bene, sono piuttosto anziano e quindi comunque insomma. Quanti anni ha signor Rolando oggi? 85. 85, ma li porta benissimo, si sente dalla voce. Insomma, forse la voce, ma ad ogni modo. Allora, torniamo a quell'avventura là, è il 1956. Sì. Lei quanti anni ha signor Rolando? Ha 29 anni e fa praticantato per notaio, giusto? Sì, sì, ero laureato in giurisprudenza e ero praticante in uno studio notarile, sì. E lei a un certo punto chiama un suo amico, Adriano Sada, giusto? Sì. E gli dice, perché non facciamo un giro in bici intorno al mondo? Cose non sono state così semplici, insomma, si è trattato di una lunga incubazione, prima fantasie varie, sogni, eccetera, e poi a poco siamo arrivati alla conclusione di partire. Ma la cosa che leggevo, che mi sembrava particolarmente curiosa, al di là della decisione di fare un giro come quello, è che voi non avete avvisato nessuno. Effettivamente la cosa insomma era abbastanza grave, perché avremmo potuto, non so, cercare degli sponsor, eccetera. Non abbiamo neppure avvisato la casa delle biciclette, di modo che poi durante il viaggio abbiamo scritto alla casa delle biciclette per farci mandare dei pezzi di ricambio, ma altrimenti non abbiamo mai detto a nessuno. Le biciclette che avevate, che marca erano? Freius, ok. Allora... Freius, sì, era una casa di Torino, sì. Allora, voi però arrivate a Trieste e ci mettete 8 giorni, giusto? Sì, sì. E lì sì, comunicate... Circa, e lì... Sì, adesso, no? E lì comunicate ai familiari che non sareste tornati indietro. Perché siamo partiti per le ferie in realtà, tutti e due, il mio amico era impiegato alla Stipel, alla società dei telefoni, e eravamo tutti e due partiti per le ferie, e quindi abbiamo detto che avevamo un'occasione per fare il giro del mondo in bicicletta. Sì, certo che mi sembra una cosa normalissima, no? Fare il giro del mondo per le ferie. Mi dice l'itinerario, che paesi avete attraversato, signor Rolando? Da Trieste, la Jugoslavia, allora la Jugoslavia era un paese unico, Bulgaria, Grecia, Turchia, Siria, Giordania, Iraq, Iran, Afghanistan, Pakistan, India, e poi in India da Calcutta per la prima volta abbiamo dovuto imbarcare le biciclette, perché non potevamo proseguire per la Birmania, perché non era possibile avere i visti. Okay. E quindi siamo sbarcati con la nave a Penang in Malesia. Sì. E abbiamo fatto tutta la Malesia da nord a sud, Singapore, poi l'Indonesia, Giava, Bali, ritorno a Singapore, poi Vietnam e tutto il mondo. E poi attraverso le Filippine, però le Filippine non siamo andati in bicicletta, cioè nelle Filippine, non so, e Hong Kong e Giappone. Ok, e poi dal Giappone durante l'inverno, purtroppo, con una nave, giusto? Comunque abbiamo attraversato il Giappone in bicicletta. E poi avete preso una nave, giusto? Siete arrivati negli Stati Uniti. Dovevamo andare in Australia, avevamo già preso i biglietti della nave e abbiamo trovato una nave italiana che ci portava gratis in California. E allora abbiamo preso quella. Certo. Senta, mi scusi signor Rolando, ma come comunicavate con l'Italia, con i parenti? Ah, per lettera, sì, per lettera, attraverso le ambasciate e i consolati. Ci facevamo scrivere dai parenti, dagli amici, presso le ambasciate e i consolati ai quali saremmo arrivati. Ah, ok, quindi in anticipo, voi dicevate, noi tra un mese saremo in Afghanistan, scriveteci. Sì, come in anticipo dovevamo richiedere i vari visti dei vari paesi, eccetera, e per gli Stati Uniti l'abbiamo richiesto in Indonesia, il visto, eccetera, e per forza dovevamo sempre giocare d'anticipo, sì. Ecco, io volevo anche approfittarne, signor Rolando, per ricordare che c'è un libro che è stato tratto dai suoi diari e dalla vostra avventura, che si chiama Due biciclette intorno al mondo, ed è pubblicato da Lazzaretti Editore. Io ho visto una fotografia di casa sua in cui lei ha appeso nel soggiorno di casa sua, nel tinello, il telaio di quella bicicletta. Sì. È ancora lì? Sì. Signor Rolando, io la ringrazio molto. È andato a fare qualche altro giro dopo quello? Dopo no, qualche giro così in Italia, in bicicletta, però poi altri viaggi per tutto il mondo, ma non più in bicicletta. Okay. No. Che mestiere ha fatto poi nella vita? Nella vita poi sono stato chiamato dal notaio presso cui sono andato in ferie, il quale mi ha chiesto di ritornare al suo studio. E quindi ha fatto il notaio? No. Ah, ok. No, ho lavorato poi qualche anno nello studio anche come impiegato normale, diciamo, non soltanto come praticante, e poi ho avuto un lavoro autonomo di accertamenti giuridici, okay, immobiliari. Valentino Rolando 60 anni fa girava il mondo in bicicletta, ci metteva 2 anni e lo faceva insieme al suo amico Adriano Sada. Io la ringrazio moltissimo, signor Valentino, buona giornata. Grazie.